con Arianna Porcelli Safonov, autrice e attrice del Reading Tristocomico, Reading scritto proprio come si pronuncia, che sarà a Roma all'Altro Spazio il 21 ottobre prossimo. Arianna, ben ritrovata. Grazie Federico, ciao a tutti. Uno che pronuncia bene il mio cognome, che meraviglia. Abbiamo già ospitato il tuo lavoro al radioteatro e per chi non lo conoscesse, quei pochi sfortunati, raccontiamo. Allora, si tratta di monologhi cosiddetti tristocomici, nel senso che cerco di ripristinare un minimo di dignità alla comicità italiana attraverso dei pezzi che sono a metà strada, appunto, tra quello che può essere un reading di satira sociale e la formula della stand-up. Ovviamente contro tutto e contro tutti, perché il momento storico lo richiede. In pillole. Quando è nata questa formula? Nel 2010, quando ho iniziato a dare dignità alla scrittura e a darle, insomma, la forma di un mestiere. Inizialmente aprendo il blog di Madame Pipì, poi è arrivato il contratto con Fazzi, per loro scrivo nella collana umoristica. E tutto qui, dopodiché ovviamente si è reso necessario trovare il metodo più giusto, più furbo per diffondere quello che scrivevo. È un'epoca un po' strana in cui leggiamo poco, andiamo poco a teatro, e però paradossalmente la formula del reading va molto bene, quindi proprio uno stronzo che legge ancora attira attenzione. Quindi per esempio, non so, Guido Catalano, che io stimo tantissimo, e quindi ho deciso, insomma, di mettermi davanti in leggio, nonostante i miei pezzi io li sappia ovviamente tutti a memoria, avendoli scritti io, perché mi piaceva proprio l'idea di creare un minimo di distacco tra quello che leggo e me stessa, appunto, l'interprete. In questo modo, insomma, posso permettermi forse qualche licenza in più e qualche parolaccia in più. A questo punto facciamo un ulteriore passo indietro. La scrittura com'era partita? È partita per caso attraverso un'esperienza di vita che sto tuttora subendo insieme agli Appennini in Liguria, dove vivo in un piccolo paese con 12 abitanti. Sono venuta qui a viverci per anni e quindi avevo un sacco di tempo libero, che da una parte è un lusso, però dall'altra era un momento veramente disperato in cui mi ero buttata in questa impresa dicendomi: ok, voglio passare un anno in solitaria, veramente in un posto realmente abbandonato e non solo così recuperato dai secchettoni di oggi. E allora sono andata a vivere quassù, in questo fienile, e ho detto un po', fammi raccogliere le memorie nel caso muoia per freddo o dissenteria. E quindi ho iniziato a scrivere, e la raccolta di questi racconti, appunto, ha dato il titolo al mio primo libro, che è Fottuta Campagna, che ovviamente il mio editore è appena, insomma, ha letto il manoscritto, visto che all'epoca se ne parlava ancora non tantissimo, ha detto: boh, buona idea, raccontare il diario di una sopravvissuta. Arianna, invece poi con i tuoi reading sei andata in giro per l'Italia, che tipo di esperienza è? Un'esperienza realmente gratificante che ha del miracoloso. Devo ringraziare ovviamente la rete, che io disprezzo un po' in tutti i modi, Federico, però è un metodo democratico con milioni di possibilità di arrivare a un pubblico, cosa che appunto in questo momento, ma soprattutto in questo paese, non sempre è possibile ad un artista. E quindi il mio grazie va in questo momento a questo nuovo metodo che non conosciamo, che appunto ci fa un po' schifo, ci sentiamo un po' ridicoli a presentarci in rete, quando invece è veramente un posto di lavoro e va utilizzato in questo modo, e grazie a questo posto di lavoro, insomma, ho il permesso e la licenza prima di tutto del pubblico e non, tra virgolette, di un potente impresario, agente, produttore, eccetera, eccetera, di poter girare in Italia e di andare a incontrare proprio il mio pubblico in Italia. Poi parlo dell'Italia, ma c'è anche la Svizzera, per fortuna. Avanti tutta con questi nuovi metodi. Arianna, in cosa sei impegnata in questo momento? Quali progetti stai portando avanti? Continuo a girare con Storie di Matti, Sì. che è il mio secondo libro, quindi storie di persone normali che però, insomma, sarebbero state in quelle che Basaglia ha voluto giustamente chiudere. Dopodiché sto revisionando la raccolta di tutti i miei monologhi, che vorrei presto pubblicare, e a marzo tornerò in scena con Piaghe, che stiamo risistemando, e questo lavoro teatrale proprio così come piace ai teatri, perché ai teatri il leggio sta sempre un po' antipatico, allora torniamo in scena con appunto uno spettacolo di critica, di denuncia a quelle che sono le piaghe contemporanee. Dopo i flagelli nei testi sacri, adesso ce la prendiamo con quelle che sono i castighi che ci siamo autoinfitti, quindi centri commerciali, grande distribuzione, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Dove sarai in scena? Partirò dall'Emilia Romagna, che è sempre la più goliardica, okay. Poi scendere. E a questo proposito, a questo punto, lasciaci i riferimenti per saperne di più, sia sulle prossime date del reading che sugli altri lavori. È tutto sul sito e sulla mia pagina, che si chiamano entrambi Arianna Porcelli Safonov, quindi bisogna essere proprio bravi a ricordarsi questo. Porcelli è facilissimo, Safonov ovviamente un po' meno. Dopodiché, se ci fossero delle necessità, io sarò a Roma domenica e quindi ve lo scrivo in un bigliettino. Ricordiamo allora la data romana di Reading Tristo Comico di e con Arianna Porcelli Safonov a Roma all'Altro Spazio, 21 ottobre. Arianna, è sempre un piacere, un abbraccio e a presto. Un abbraccio a voi, un piccolo promenore, c'è il parcheggio. È bella questa cosa. È bellissimo. Ciao, grazie mille.